Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. Introduzione di Luca Scarlini. Amore e ginnastica è uno dei capolavori narrativi di Edmondo De Amicis, un autore che un tempo era maledetto perché cuore lo sopprimeva e lo avvolgeva un po' tutto integralmente, che poi è stato nel corso degli anni recuperato per alcune pagine più vive e più fresche. Un racconto lungo del 1882 in cui si parla appunto di amore, da una parte quello di un personaggio abbastanza peculiare, un signore che da ragazzino era stato in seminario e che dopo ne era uscito ma aveva mantenuto una sorta di atteggiamento pretesco e per questo veniva chiamato per soprannome Don Celzani, e la bellissima, atletica, aggressiva signorina Pedani che è una maestra di ginnastica. Il racconto, che fu poi riproposto all'attenzione in modo assai forte da un film di Luigi Filippo D'Amico del 1972 e da una pubblicazione nei 100 pagine voluta fortemente da Italo Calvino più o meno in quello stesso turno di anni, prevede la presentazione di una Torino estremamente in movimento. È quello il tempo in cui naturalmente Don Bosco stava divenendo il punto di riferimento di tutte le maestranze operaie della città e in cui però vi erano anche fermenti di tipo socialista e perfino anarchico. Si sa che gli ultimi anni di Amicis saranno votati appunto a una propaganda del socialismo fino alla stesura di questo romanzo per certi aspetti straordinario, Primo Maggio, che però rimase inedito e che uscì soltanto postumo perché troppe sarebbero state le ripercussioni alla sua pubblicazione. Quello che noi vediamo è una Torino quindi tra Via Po e Piazza Carlina, una Torino estremamente compassata e severa, in cui la maestra Pedani, che peraltro è un personaggio anche assai, come dire, allusivo, si parla per certi aspetti anche di un suo certo penchant per le signorine, cioè quest'altra maestra, la Zibelli, che ha con lei una relazione di qualche tipo, e comunque la maestra Pedani passa per questa Torino così compassata e la sconvolge. Per questo motivo, quel che accade naturalmente è che ella diventa una sorta di punto di riferimento per tutti i maschi di passaggio, in specie per il maestro di ginnastica, il professor Fassi, che l'ha espressamente contattata a Torino da Milano per farla scrivere in una nuova e moderna rivista ginnica chiamata Il Nuovo Agone. Il gioco sostanzialmente è quello di presentare un personaggio maschile di estrema timidezza che viene sconvolto e assolutamente messo sottosopra da una donna che in definitiva prende sempre e comunque l'iniziativa. Nel film di Luigi Filippo D'Amico già citato, ad interpretare i personaggi erano un Lino Capolicchio particolarmente goffo e maldestro e una divertentissima Senta Berger, attrice austriaca, che davvero sembrava una sorta di propaganda per un'impresa ginnica dell'epoca. Il gioco sostanzialmente è proprio quello di far capire come in questo mondo che da una parte è molto all'antica e dall'altra si sta aprendo al futuro industriale, ci sia possibilità di vivere un'epifania dell'amore anche in una vita che può essere la più grigia del mondo. Quando Celzani viene presentato per la prima volta, egli viene definito come una figura di notaio da commedia o forse un precettore di una famiglia clericale. Quindi una figura grigia, scialba. Eppure, senza raccontar niente di ciò che poi seguirà, anche in questa vita così grigia e scialba, l'amore può esplodere e sbocciare. De Amicis, in questo lungo racconto del 1882, è in sostanza sulla linea di una serie di rappresentazioni torinesi che faranno la gioia del cinema calligrafico di Mario Soldati e che risuonano quasi in una commedia famosa come Addio Giovinezza, di Uxilia e Camasio, in cui si racconta l'epopea scervellata di un gruppo di sartine e di un gruppo di studenti loro amanti. Amore e ginnastica come retaggio di tempi antichi, l'amore di un romanticismo che è tramontato sotto l'impronta dei tempi nuovi ma che rimane ben presente. Ginnastica perché quello è il simbolo dei tempi nuovi, meccanici e anche propensi a porre l'individuo al centro di un'azione continua. In questa sorta di dittico possibile, si gioca uno dei racconti più divertenti del secondo Ottocento, che dal 1882, data della prima edizione, ha avuto numerose riedizioni e ristampe e che rimane senz'altro tra le opere più perfette della prosa di amicisiana. Thank you. Al canto di Via dei Mercanti, il segretario fece una profonda scappellata all'ingegner Ginoni, che gli rispose col suo solito «Buongiorno, segretario amato». Poi infilò via San Francesco d'Assisi per rientrare in casa. Mancavano 20 minuti alle 9. Era quasi certo di incontrare per le scale chi desiderava. A 10 passi dal portone intoppò sul marciapiedi il baffuto maestro di ginnastica Fassi, che leggeva delle prove di stampa. Questi si soffermò e, mostrandogli i fogli, disse che stava scorrendo le bozze d'un articolo sulla sbarra fissa della maestra Pedani, scritto per Il Nuovo Agone, giornale di ginnastica, del quale egli era uno dei principali redattori. «È giusto», soggiunse, «quello che dice. Non ci ho da dare che qualche ritocco qua e là. Ah, è veramente una maestra di ginnastica. Non dico per scrivere, ciascuno ha le sue facoltà. E poi nella ginnastica, come scienza, il cervello d'una donna non sfonda, si sa, ma come esecutrice non ce n'è un'altra. Già, madre natura l'ha fabbricata per quello, le ha dato le proporzioni scheletoniche più perfette che io abbia mai viste. Una cassa torace che è una meraviglia, l'osservavo giusto ieri nella rotazione del busto che faceva per esperimento, ha una flessibilità ad una bambina di 10 anni, e mi vengano a dire, signori estetici, che la ginnastica sforma il bel sesso. Quella maneggia i manubri come un uomo, è il più bel braccio di donna, se lo vedesse nudo, che si sia mai visto sotto il sole. La riverisco. Così egli troncava bruscamente ogni discorso per imitare il celebre Bauman, il grande ginnasiarca, come egli lo chiamava, che era il suo dio. Il segretario rimase pensieroso. Quel feroce maestro Fassi, senza saperlo, andava tormentando il segretario da un pezzo con tutti quei ragguagli descrittivi delle forze e delle bellezze della maestra, a cui egli già troppo pensava. Ora, quelle due immagini del busto roteante e del braccio nudo gli crebbero l'agitazione con la quale s'avviava sempre verso la scala, quando sperava di incontrarvi la sua vicina. Salì i primi scalini a passi lenti e leggeri, con l'orecchio teso, e quando fu sul primo pianerottolo, udendo sopra uno stropiccio di piedi, si sentì salire il sangue alle guance. Erano la maestra Pedani e la maestra Zibelli, che scendevano insieme, come di solito, per andare alla scuola. Egli riconobbe la voce di contralto della prima. Quando si trovarono di fronte, a metà della seconda branca di scala, il segretario si fermò, levandosi il cappello, e invece di guardarla Pedani, vinto dalla timidezza, guardò, come faceva sempre, la sua compagna, la quale, anche questa volta, credette d'esser lei la cagione del suo turbamento, e lo incoraggiò con un sorriso amorevole, e tennero uno dei soliti dialoghetti stupidi di quelle occasioni. «Così presto vanno alla scuola», balbettò lui. «Non è tanto presto», rispose con voce dolce la maestra Zibelli. «Sono a momenti le 8:03. Oh, credevo le 8:30. I nostri orologi vanno meglio del suo. Può darsi. C'è una nebbia stamattina. La nebbia precede il buon tempo. qualche volta, speriamo, e al piacere di rivederle. Arrivederla. Arrivederla. Arrivato a capo della scala, il segretario si voltò rapidamente e fece ancora in tempo a lanciare un'occhiata ladra alla bella spalla e al braccio poderoso della Pedani, nel momento che la Zibelli, senza che la sua amica se ne avvedesse, si voltava a lanciare a lui uno sguardo sorridente. Allora egli prese una risoluzione. No, no, no, non poteva continuare in quella maniera. Quella nuova sciocca figura che gli aveva fatto in presenza di lei gli dava l'ultima spinta. Era deciso. Avrebbe mandato la lettera che teneva da una settimana sul tavolino. Voleva una sentenza di vita o di morte. Arrivato al secondo piano, il segretario aprì l'uscio con un movimento risoluto e andò difilato verso la camera di suo zio, il commendatore Celzani, padrone di casa, per rimettergli le pigioni dell'altra sua casa di Vanchiglia e andar subito dopo a rileggere l'ultima volta la lettera che doveva decidere del suo destino. Ma un passo dall'uscio, udendo due voci nella camera, s'arrestò e, messo l'occhio al buco della serratura, vide in compagnia del padrone un uomo bassotto e grasso, con un largo viso imberbe e rugoso di ragazzo invecchiato e enfiato ad un tratto, e una piccola parrucca nera messa per traverso. Era il direttore generale delle scuole municipali che, passando ogni mattina per via San Francesco per andare all'uffizio, saliva ogni tanto a salutare il commendatore, col quale aveva stretto amicizia intima 8 anni prima, quando quegli era assessore supplente dell'istruzione pubblica. Non di meno, essendo diventato diffidente di tutti, dopo che aveva il segreto di quella passione nel cuore, il segretario si mise a origliare all'uscio, col sospetto che parlassero di lui. Si tranquillò un poco, udendo che il direttore discorreva, secondo la sua consuetudine, delle grandi e delicate difficoltà della propria carica per ciò che riguardava le maestre. «Lei capisce», diceva con voce asmatica e lenta, «è una carica, lei lo sa, che richiede un tatto, una delicatezza che pochi hanno. Si tratta di mandare avanti una famiglia da 250 a 300 fra signorine giovani e mature, maritate e vedove, provenienti da tutte le classi sociali, e con loro un corpo di direttrici che sarebbe più comodo aver da fare con le 30 principesse di casa o El Zoller. Si immagini i pensieri che mi danno fra amori, malattie, matrimoni, lune di miele, esame, puerperi, rivalità, contrasti con superiori e parenti. Creda che alle volte io darei del capo nel muro». Il segretario, rassicurato del tutto, si trasse in disparte ad aspettare. Uscito appena il direttore, entrò dallo zio, che era ancora seduto sulla poltrona, ravvolto nella veste da camera, con i suoi gravi e dolci occhi azzurri, fissi alla volta come assorto in contemplazioni celesti, e resogli conto del suo operato, gli mise sul tavolino i biglietti di banca. Quegli fece un cenno d'approvazione con la sua bella testa bianca, senza parlare, come era suo uso. Allora il segretario se n'andò in punta di piedi, entrò nella sua camera, cavò da un cassetto chiuso una lettera di 4 facciate scritte con perfetta calligrafia, la rilesse con profonda attenzione, la rimise nella busta con gran riguardo, vi attaccò un francobollo con molta cura, uscì di casa senza farsi sentire e, arrivato al canto della strada, dopo essere rimasto un po' incerto con la mano alzata davanti alla buca delle lettere, vi lasciò cadere la sua. Il segretario Celzani passava di pochi anni la trentina, ma aveva la compostezza d'aspetto e di modi d'un uomo di 50, una figura di notaio da commedia o di precettore di casa patrizia clericale. Rimasto orfano da ragazzo, era stato raccolto da uno zio materno, parroco di villaggio, che l'aveva tirato su in sagrestia e poi messo in seminario per farlo prete. Ma morto il parroco, lasciandogli un po' di peculio, l'aveva levato di seminario, preso in casa sua lo zio Celzani, vedovo senza figliuoli, per fargli fare da segretario o da fattore di campagna, ufficio in cui egli metteva una probità e uno zelo veramente esemplari. Andava in chiesa, frequentava dei preti, e di prete gli erano rimaste certe mosse e certi atteggiamenti, come quello di tenere spesso una mano nell'altra serrate sul petto. Ma non era bigotto e si vantava senza mentire d'essere patriota e liberale. Ciò nonostante, a cagione della sua apparenza, tutti gli inquilini della casa lo chiamavano da anni per celia Don Celzani. Eppure, trovando in lui un'ombra leggera di ridicolo, lo stimavano e gli volevano bene, poiché era cortese e servizievole, timidamente rispettoso con tutti e sempre eguale. Non avendo, quando la sua pazienza era messa alla più dura prova, altra esclamazione più risentita di quella di «Dio grande!» che gli metteva fuori alzando gli occhi al cielo e allargando le braccia in atto di invocazione. Ma era un lato della sua natura che nessuno conosceva. Sotto quell'aspetto composto di prete travestito si celava un temperamento fisico vivacissimo, una forte sensualità contenuta, non per ipocrisia, ma in parte per timidezza, in parte per sentimento di decoro, e dissimulata per lo più da un'aria di profonda meditazione. A veder per la strada quell'uomo vestito di nero, un po' curvo, coi capelli scuri spioventi, col viso liscio, con 2 occhi così piccoli che quando sorrideva non si vedevano più, con un naso lungo e sottile di asceta, con un'andatura come se gli studiasse di farsi piccolo, e sempre con lo sguardo rivolto a terra, 10 passi davanti a sé, nessuno avrebbe mai pensato che non sfuggisse alla sua vista né un piedino scoperto sul montatoio d'una carrozza, né una fotografia libera in una vetrina, né una coppia tortoreggiante sotto un portone, né alcuna cosa o immagine che potesse eccitare i sensi. Thank you. Il segretario Celsani era una di quelle nature nella loro sensualità non volgari, le quali non si abbandonano al vizio perché non vi si appagano e son fatte per non trovare appagamento che in un possesso unico, sicuro ed onesto, non scompagnato dall'affetto, nature più che semplicemente sensuali, amorose, che aspettano e cercano, frenandosi senza grande sforzo finché non trovino incarnato un certo ideale fisico e morale che covano in mente, nel quale sono forse più difficili accontentarsi d'altri uomini più freddi e più raffinati, a cui non fa velo il fumo della passione. Ora egli aveva trovato quest'ideale nella maestra Pedani, lombarda, venuta 3 mesi prima, sul cominciare di dicembre, ad abitare con la sua collega Zibelli in un quartierino al terzo piano di quella casa, di fronte all'uscio del maestro Fassi, il quale l'aveva tirata là per assicurarsi meglio la sua cooperazione preziosa al nuovo agone. Quell'alta e robusta giovane di 27 anni, larga di spalle, stretta di cintura, modellata come una statua, che ispirava da tutto il corpo la salute e la forza e che sarebbe stata bellissima se non avesse avuto un nasino non finito e un'espressione di viso e un'andatura troppo virili, gli aveva fatto fin dal suo primo apparire l'effetto di una persona lungamente desiderata e aspettata. Era il tipo che egli aveva accarezzato nei suoi sogni ardenti di seminarista, la figura che aveva vagheggiato confusamente per tutto il corso della sua calda gioventù castigata. La prima volta che era salito in casa sua a prendere da lei la pigione anticipata del trimestre, non gli era riuscito di contare i biglietti da 5 che se li aveva messi in fila sul cassettone. Da quel giorno la sua passione era andata crescendo a vampate. E appena egli ebbe compreso dal contegno di lei il suo carattere vigoroso e calmo, repugnante a ogni civetteria, che quasi non le lasciava avvertire l'impressione prodotta dalla propria persona e non dava speranza alcuna né di leggerezze né di capricci, il pensiero di lui andò dritto e risoluto al matrimonio, come all'unico modo possibile di conseguire la soddisfazione dei suoi desideri. Leopoldo Mastelloni ha letto Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolanti e Anna Marzetti, con Lorenzo Pavolini, il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.